Mi spiega come un sindaco non se ne accorge di questo? Cioè, come fa un sindaco a non accorgersi del fatto che ci sono dei tentativi di condizionamento mafioso? Vorrebbe essere o ciechi o disattenti. Mi spieghi lei? Ma sembra che lei abbia già il giudizio in tasca. Comunque, no, guardi, io non ho nessun giudizio. È una domanda, è una domanda logica. Mi sembra molto calzante il paragone dell'amministratore di condominio. Io ero arrivato neanche da un anno ad amministrare il condominio e chi c'è dentro magari aveva preso quegli appartamenti da quelli che mi hanno preceduto. Questa è una risposta classica, sindaco. Le veste strumentalizzano magari in maniera bieca e fuori luogo. Guarda, la battaglia alla mafia non è una battaglia di parte, al massimo è una battaglia forse un po' più di generazione, quella a cui appartengo. No, però mi lasci dire, sindaco, che la risposta, io sono arrivato da appena un anno, una risposta francamente banale, me lo lasci proprio dire, insomma, perché probabilmente lei non sarà nato ieri, Pavia la conoscerà meglio di me, no? Voglio dire, quindi non è che può dire sono arrivato un anno fa e quindi, detto che però non ho giudizi in tasca, perché francamente lo lascio ai giudici, io faccio soltanto il giornalista. Mi tocca un'altra curiosità, perché non si è costituito parte civile il suo comune contro l'ex assessore Pietro Trivi, accusato nella stessa inchiesta di corruzione elettorale? Qualcuno ha storto il naso, ma dica la sua. Beh, sono due inchieste completamente diverse. Una appunto è corruzione elettorale, dove di processi ce ne sono stati moltissimi in tutta Italia, ed è una questione tra l'altro abbastanza circoscritta. Il processo è già a buon punto, quindi aspettiamo di avere tutti quanti e spero che darete spazio anche alla sentenza nel momento in cui arriverà. L'altro è un processo di associazione mafiosa. Guardi, sarò il primo tra i primissimi comuni che ci costituiamo parte civile. Tra l'altro faccio presente che la costituzione di parte civile è un atto facoltativo che potrebbero fare anche singoli cittadini o associazioni, e i PM non hanno visto nella parte lesa in nessuno dei due processi il comune di Pavia. Il nostro è stato un gesto anche. Beh, così. Questo mi fa piacere, le posso assicurare che sono il primo a dare spazio, anzi la invito anche a segnalarcelo, il primo a dare spazio alla notizia, come ovviamente mi auguro, di una pronta soluzione non solo per Pietro Trivi ma anche per tutti gli altri indagati, perché vorrebbe significare che i magistrati si sono inventati una balla di dimensioni colossali.